passavo di qua quando ho sentito quello che è successo, quindi sono rimasta così scioccata che in fondo non sono riuscita in quel momento a capire cosa stavo vivendo. Nel tempo ovviamente ho capito il dramma che è successo. È meglio dimenticare certe cose, ma preferisco. Perché? Perché è stato triste. Perché lo conoscevo personalmente. Mentre venivo in negozio sentivo sparare. Sono andato fuori a vedere e ho visto questa persona che non sapevo che era commissario. E niente, era appoggiato lì a 500 e pensavo di soccorrerlo. Ma poi ho visto che aveva un buco nella testa qua, era uno dietro la schiena. Mercoledì 17 maggio 1972, Milano, le 9:15. Un suono acuto, il ricevitore della centrale operativa di Via Patebene Fratelli, la questura. La voce è lontana, metallica, giunge dalla radio di un equipaggio della squadra volante della polizia. Attenzione, c'è un uomo ferito dai colpi di pistola in via Cherubini. È il commissario Luigi Calabresi, ferito da colpi di pistola, sta sanguinando dal capo, chiamate altre vetture, che arrivino subito, fate presto, non si può perdere un attimo. Il commissario Calabresi cade dalla sua 500 rossa e una Opel Kadett, parcheggiate con la parte anteriore accostata allo spazio traffico. Mandateci un'autoambulanza, fate presto, strilla ancora la gente della radio, forse si riesce a salvare. E intanto passano i minuti e il ferito viene trasportato a San Carlo da un'auto della Croce Bianca. Luigi Calabresi muore alle 9:47. Il suo nome è associato alle inchieste sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 69 e soprattutto alla morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato dal quarto piano della questura di Milano. Anni dopo, nel 75, il giudice di Milano D'Ambrosio dimostra che Calabresi non era presente nella stanza in cui veniva interrogato Pinelli, quindi è innocente. Quando il killer lo uccide, Luigi Calabresi ha 35 anni. È il vice direttore dell'ufficio politico della questura di Milano. Lascia una moglie, Gemma, due figli, Mario e Paolo, e un terzo che deve ancora nascere, Luigi. Calabresi viene da Roma. È cattolico convinto, alla domenica va a messa, ma si interessa di tutto. Legge Cesare Pavese, Marité, Bernanos, Edgar Lee Masters, la letteratura russa. Con Gemma Capra si sposa nel 1969 e va ad abitare in un appartamento a Milano, regalo di nozze della famiglia Feltrinelli. È laureato, si presenta come un liberal che vota per i socialdemocratici, sempre con i suoi eleganti maglioni dolcevita. Il lavoro di Calabresi non è tra i più facili. Controlla cioè l'attività dell'arcipelago dei gruppi della sinistra e della destra extraparlamentare. Si trova nell'inchiesta più complessa della storia dello stragismo italiano, quella della bomba del 12 dicembre 1969 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano. Gli occhi dei testimoni. Pietro Pappini percorre via Cherubini con la sua Alfa Romeo 2000. Si dirige in via Mario Pagano. Scorge una Fiat 125 blu targata a Milano, 16802, che procede lentamente e racconta. Dalla macchina scende un uomo alto che raggiunge il commissario, gli punta la pistola con canna lunga ed esplode due colpi alla tempia. Mentre la vittima si accascia al suolo, lo sparatore tiene sempre la pistola in mano, indietreggia, raggiunge l'auto che nel frattempo si era avviata, prendendo posto sul sedile accanto ad una donna alla guida. Anche Luigi Gnappi fornisce il particolare della donna al volante della 125 blu e dice: a fianco del killer c'era una donna, mi sembrava molto giovane. Adelia Dalpiva scende in quel momento da casa per imboccare la lettera e dice: dalla Fiat 125 scesero un uomo e una donna che stavano al posto di guida. Lei portava pantaloni neri, un giacchetto senza maniche, senza collo, che scendeva fino alle cosce. Un uomo e una donna alla guida dell'auto, dicono i testimoni. Teniamo presente questo particolare. Ecco, gli investigatori indirizzano la pista verso la sinistra extraparlamentare, poi indagano gli ambienti della destra eversiva. 20 settembre 1972. Vengono arrestati al valico di Brogeda Gianni Nardi, Bruno Stefano, la cittadina tedesca Kies Gudrun. Sull'auto i poliziotti trovano un arsenale da guerra. Alcuni testimoni dell'omicidio calabresi notano una certa somiglianza tra il fotofit del killer e Gianni Nardi. Ma la pista di destra esce di scena con la scomparsa di Nardi nell'incidente a Mallorca, Spagna, settembre del 76. Nelle inchieste spuntano poi le dichiarazioni di collaboratori di giustizia delle BR prima linea. Roberto Sandalo, Michele Viscardi coinvolgono lotta continua nell'organizzazione dell'agguato. Anni dopo ancora, 20-21 luglio 1988, sono i giorni della svolta. Leonardo Marino, militante di lotta continua, parla del delitto calabresi, dice di aver partecipato a quell'omicidio. Era al volante della Fiat 125 blu. Per Marino, il killer del commissario è un ex militante di lotta continua di massa, Ovidio Bonpressi. L'incarico viene dall'esecutivo nazionale dell'organizzazione, in particolare dal responsabile del servizio d'ordine Giorgio Pietro Stefani, dal leader Adriano Sofri, che gli avrebbe dato il mandato nel corso di una manifestazione a Pisa. Dopo le rivelazioni di Marino, Sofri viene arrestato nella sua abitazione di Impruneta, vicino a Firenze. Stessa cosa avviene per Pietro Stefani e Bonpressi, che vengono fermati 28 luglio 1988. Gianfranco Maris, l'avvocato che difende Leonardo Marino, e Adriano Sofri, in carcere a Pisa. Io ho l'impressione che dica la verità, ho l'impressione che sia uomo estremamente sincero e tormentato, che desidera riscattarsi moralmente, che rivede il suo passato con spirito critico nel quadro di una rivisitazione etica e politica della vicenda. Io spiego fin dall'inizio che quello che per tutti è stato un enigma insolubile, umanamente travagliato, drammatico e così via, allora perché uno come Marino, da nessuno cercato, avrebbe dovuto andare dai carabinieri, consegnarsi, confessare, accusare gli altri, eccetera, eccetera. E la mia risposta è sempre stata: Marino non è andato dai carabinieri, ma i carabinieri da Marino. È un lungo iter giudiziario, controverso, denso di colpi di scena e contraddizioni. Il processo calabrese. Il percorso giudiziario di Adriano Sofri, Giorgio Pietro Stefani e Ovidio Bonpressi dura dal 28 luglio 1988 e prosegue attraverso 7 anni di lunghi processi. Molti giudici hanno preso quelle carte, le hanno lette, si sono divisi. Il primo si conclude il 2 maggio 1990, con la condanna di Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani a 22 anni e di Marino a 11. Sofri rifiuta di appellarsi, ma la Corte d'Appello conferma le condanne che il 23 ottobre 92 vengono annullate dalla Corte di Cassazione. È il 21 dicembre 1993 e la Corte d'Appello assolve gli imputati, ma il giudice Ferdinando Pincioni, nelle sue motivazioni, scrive una sentenza secondo la difesa a dir poco suicida. Infatti viene bocciata dalla Cassazione il 27 ottobre 1994. Sofri presenta un esposto alla magistratura di Brescia che il 12 marzo 1997 l'archivia. L'11 novembre 1995 c'è l'ultima condanna della Corte d'Appello confermata dalla Cassazione il 22 gennaio 1997. Poi la revisione del processo presentata dai legali di Sofri, l'uscita dal carcere di Bonpressi per gravi motivi di salute, la latitanza di Pietro Stefani che fugge in Francia, il ricorso alla Corte di Strasburgo, il dibattito sulla grazia che divide la politica. Tra il 1997 e il 1998 realizzo una nuova indagine sul delitto calabresi. Nel carcere Don Bosco di Pisa è ancora detenuto Adriano Sofri. In quella saletta della biblioteca del carcere Don Bosco mi reco almeno 10 volte. Dopo quelle interviste sull'omicidio del commissario Luigi Calabresi, Sofri non ha più voluto parlare. Eccovi alcuni dei brani di quelle conversazioni. No, il racconto di Marino non è debole, il racconto di Marino è assolutamente insensato e sconfessato in tutti i suoi aspetti, dai testimoni dell'epoca, che naturalmente non avevano niente a che fare con lotta continua, dai riscontri materiali dell'epoca, poi c'è una parentesi che riguarda la distruzione drastica di tutti i corpi di reato, cosa che di per sé basterebbe a chiudere un processo prima di aprirlo, e infine da tutte le contraddizioni interne di questo racconto. Marino mi ha accusato di avergli dato un mandato di omicidio un giorno a Pisa, il 13 maggio del 1972, e che che tutto il racconto che Marino ha fatto di quel giorno è stato smentito drasticamente da molti testimoni, da me e dallo stesso Marino, il quale si è confuso e sconfessato e ha corretto la sua versione in modo tale che anche lì bastava semplicemente ascoltarlo o leggere le carte per chiudere la questione. Non le ricordo tutti i dettagli, ma insomma questi vanno dal fatto che lui disse che era stato avvicinato a Pisa da Pietro Stefani e da me, e poi dovette ammettere che Pietro Stefani quel giorno non c'era perché fu provata l'assenza di Pietro Stefani. Disse di aver ricevuto da me questo mandato alla fine del comizio mentre sciamavamo dalla piazza andando in un bar con tutti i dirigenti di lotta continua, e io ho ricostruito con dovizia di testimoni, oltre che con dati materiali, tipo quella pioggia di cui Marino si era dimenticato, per cui aveva fornito un'immagine idilliaca di questo sciamare passeggiando dopo il comizio, che io invece ero rimasto a parlare nella piazza. Tutti i testimoni hanno raccontato di che cosa avevamo parlato, i capannelli, la loro durata e con chi sono andato via dalla piazza senza interrompere mai questi colloqui. Disse di essere ripartito subito dopo aver avuto da me questa indicazione fatale, mentre io gli ricordai che viceversa l'avevo visto davvero quel giorno a Pisa, ma a casa della mia moglie la sera e così via, e solo dopo questo lui ammise che effettivamente era venuto lì. Disse che da me aveva avuto semplicemente un avallo assolutamente che lui aveva capito chiaramente all'ordine già stabilito, ma che io non sapevo nemmeno che l'avrei visto quel giorno, quindi non potevo dargli indicazioni pratiche sull'omicidio e sulla sua esecuzione. Però quando si scoprì che Pietro Stefani non c'era e dunque non poteva dire che queste indicazioni pratiche gli erano state date da Pietro Stefani, non potendo attribuirle a nessuno, essendo rimasto solo io, disse che gliele avevo date io e così via. In una di quelle conversazioni in carcere era allora presente anche Giorgio Pietro Stefani, latitante oggi in Francia dopo la condanna a 22 anni per l'omicidio. Dei protagonisti dell'omicidio calabresi resta in carcere solo Adriano Sofri. Non mi sono mai aspettato nulla da tutto questo, no? Io credo che il diritto alla fine debba prevalere, no? Il diritto e la giustizia, no? E quindi che venga chiarito fino in fondo quello che è stato fatto, diciamo, gli imbrogli che sono stati fatti nel corso di questi anni a nostro carico, e quindi che la giustizia si affermi una vicenda come la nostra, che non è sola ovviamente, no? L'ingiustizia, e per restituire veramente liberi alle nostre famiglie, come io spero, insomma, no? Di cosa sono venuto qui, sono venuto soprattutto per difendere il mio nome, il nome che portano le mie figlie e la mia storia, no? E non perché mi aspettassi qualcosa da qualcuno, ma solo, diciamo, il riconoscimento della nostra innocenza.